Torre, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Arrestato nella notte a Monfalcone il triestino ricercato per la morte di un anziano nel padovano, Alessio Battaglia avrebbe confessato l'omicidio al culmine di una lite. Gli effetti del riarmo, lo stabilimento Leonardo di Ronchi dei Legionari sarà uno dei quattro in Italia in cui saranno costruiti nuovi droni militari progettati con un'azienda turca. Il dipartimento di Elon Musk sospende per 30 giorni le carte di credito ai dipendenti civili americani e italiani degli uffici acquisti nella base USAF. Tanta gente per l'ultimo saluto a Bruno Pizzul, una delle voci più famose del calcio. Questa mattina a Cormon si è aperta la camera ardente, i funerali nel primo pomeriggio. Crescono gli infortuni sul lavoro delle donne lavoratrici in regione. Lo scorso anno si sono registrate 3 morti. Alla vigilia dell'8 marzo le testimonianze di chi ha subito infortuni e aggressioni gravi. La crisi della Flex di Trieste. I sindacati convocano i lavoratori per il prossimo martedì davanti ai cancelli dello stabilimento per discutere delle ferie forzate. Fine settimana con tempo discreto in regione, ma da lunedì comincia a piovere. Le previsioni per i prossimi giorni con l'esperto dell'ARPA. Avvocate in classe per insegnare l'arte della mediazione. Il progetto ha coinvolto 600 studenti delle scuole superiori di Pordenone e San Vito al Tagliamento. La capitale della cultura europea ha ospitato ieri il pluripremiato scrittore di Sarajevo, Miljenko Jergovic, autore tra i più noti della letteratura balcanica contemporanea. Le 12:31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Dario Ronzoni. È stato dunque arrestato a Monfalcone Alessio Battaglia, 40 anni, triestino, ricercato per la morte di un anziano a Padova. Il corpo di Franco Bernardo Bergamin, 80 anni, era stato trovato 2 giorni fa in 2 sacchi dentro l'armadio di un'abitazione a Limena, in provincia di Padova, dove aveva abitato anche Battaglia. Avrebbe fatto delle parziali ammissioni che andrebbero nella direzione della confessione. È stato arrestato a Monfalcone Alessio Battaglia, il triestino 41enne fermato con l'accusa di omicidio volontario nei confronti di Franco Bernardo Bergamin, il pensionato padovano di 80 anni il cui cadavere è stato trovato in avanzato stato di decomposizione 2 giorni fa, con il corpo dentro 2 sacchi chiuso in un armadio della sua casa di Limena, appunto nel padovano. Il presunto assassino è stato fermato nella serata di ieri a Monfalcone, dove si nascondeva a casa di un conoscente nella centralissima piazza Cavour, al civico 22. I carabinieri di Padova, aiutati dai colleghi della città bisiaca, hanno controllato per oltre 24 ore la zona, con appostamenti anche nella vicina Via Romana e a Staranzano, prima del blitz scattato poco prima delle 19 di ieri. Battaglia, che a Limena viveva con Bergamin e aveva diversi precedenti penali, secondo la procura patavina è stato sottoposto a interrogatorio nella notte al comando provinciale di Padova dei carabinieri. Avrebbe parlato di una lite degenerata nella notte del 22 febbraio e, sulla base anche di altri indizi, è stato sottoposto a fermo e trasportato al carcere della città veneta in attesa della convalida da parte del GIP. Secondo risultati dell'autopsia del medico legale Antonello Cirnelli, Bergamin, la vittima, è stato ucciso con particolare ferocia. L'assassino gli avrebbe spezzato il collo a mani nude. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Gli effetti della crisi internazionale e la tendenza al riarmo dell'Europa stanno avendo già dei riflessi in regione. Quello di Ronchi dei Legionari sarà uno degli stabilimenti di Leonardo, ex Finmeccanica, in cui saranno costruiti nuovi droni militari progettati grazie a una joint venture con un'azienda turca. Le mosse dell'Unione Europea in direzione di un investimento da 800 miliardi di euro l'anno in sicurezza e difesa hanno indotto anche le imprese della nostra regione ad alzare i sensori per capire quali potranno essere le opportunità. Non occorre fare carri armati per essere coinvolti. Si tratta di un settore ad altissima componente manifatturiera, fa notare il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michele Agrusti. E poi è interessato il settore della componentistica elettronica. Prossimi giorni, annuncia Agrusti, proprio Confindustria convocherà una riunione con gli esperti per valutare appunto le ricadute sul nostro sistema produttivo. E se ancora la svolta europea non è concreta, l'economia è più veloce. Leonardo e la turca Baykar hanno firmato una joint venture paritaria per la produzione di aerei senza pilota, i droni, e il lavoro preparatorio dell'intesa era cominciato 5 mesi fa. Leonardo, proprio sui velivoli senza pilota, ha a Ronchi dei Legionari uno dei suoi siti produttivi principali. Vi lavorano quasi 300 dipendenti, personale ad altissima specializzazione. Le stime prevedono un mercato da 100 miliardi di dollari solo in Europa nei prossimi 10 anni. Non si sa al momento quale sarà il coinvolgimento del sito di Ronchi e di quale portata. La Baykar dei fratelli Selçuk e Haluk Bayraktar, il primo ha sposato la figlia del presidente Erdogan, è leader mondiale nel settore dei droni, messisi in mostra anche nel conflitto ucraino. La capacità di esportare i prodotti realizzati sarà cruciale nel business della joint venture firmata ieri e i paesi di destinazione saranno decisi insieme dalle due parti. Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia. Un altro effetto della nuova amministrazione Trump si è fatto sentire ad Aviano. Ai dipendenti civili americani e italiani degli uffici acquisti della base USAF sono state sospese le carte di credito governative e i relativi conti sono stati azzerati. Il provvedimento è stato assunto dal DOGE, il Dipartimento per l'Efficienza Governativa guidato da Elon Musk. La comunicazione è giunta ieri mattina, indicando in 30 giorni la durata della sospensione. L'obiettivo è migliorare la trasparenza della spesa federale, mentre si prevede che un sistema tecnologico centralizzato registrerà ogni pagamento. Ad Aviano sono state congelate temporaneamente le tessere in uso ai soli dipendenti civili, con alcune eccezioni per una 60 di persone nei vari uffici acquisti della base di Aviano. E dei nuovi assetti internazionali che si stanno configurando e del futuro dell'Europa si sta parlando in queste ore a Udine, nella seconda giornata di Open Dialogues for the Future. Ricordate il cambiamento domestico in Unione Sovietica che ha portato alla fine della Guerra Fredda? Non è stato un evento internazionale, ma un cambio interno a Mosca. E la stessa cosa sta succedendo adesso a Washington. Per il politologo, economista e saggista Robert Kaplan siamo davanti a un momento di rottura nella storia. Il principale ospite della mattina di dibattito di Open Dialogues for the Future fa notare che 80 anni fa dagli Stati Uniti arrivava la metà della manifattura globale, oggi questa percentuale è scesa al 16% e la classe media statunitense è molto più debole. C'è una grande maggioranza di americani che pensa di non potersi più permettere di continuare a finanziare la difesa europea. Commentando la notizia del memorandum d'intesa tra Leonardo e il gruppo turco di droni, Baykar, l'ex ministra francese delle forze armate, Sylvie Goulard, sottolinea che l'Europa spende già 300 miliardi in difesa, ma con decisioni totalmente separate. Bisogna assicurare ai contribuenti europei un migliore equilibrio dei compiti di produzione, senza però creare vulnerabilità legate a un monopolio di un unico paese. Se mettiamo le nostre forze insieme, possiamo anche investire di più nella ricerca e forse anche utilizzare l'Alleanza Atlantica che finora esiste e lavorare con paesi come il Regno Unito, il Canada, la Turchia. La strategia per gestire questa fase di incertezza punta anche sul favorire insediamenti americani in regione. Di recente il Friuli Venezia Giulia ha ricevuto una delegazione di 7 aziende dalla Virginia. Ci sono 25-30 dossier di investimenti esteri all'anno, un terzo dei quali statunitensi. Lidia Alessio Verni, direttrice generale dell'Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa della Regione. Imprese del settore tecnologico, imprese della cyber security, imprese del medicale, imprese che cercano qui sia una piattaforma di lancio per i loro prodotti e servizi, sia cercano un momento di collaborazione, soprattutto con il nostro sistema della ricerca e della scienza. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. Chiudiamo quest'ampia pagina dedicata agli effetti della crisi internazionale per parlare dell'addio a un friulano popolarissimo, entrato nella storia del calcio non per averlo giocato ma per averlo raccontato con la sua voce indimenticabile. Bruno Pizzula a Cormons. Si è aperta questa mattina la Camera Ardente, alle 14:30 saranno celebrati i funerali. Oggi è il giorno dell'ultimo saluto a Bruno Pizzul, la voce che ha raccontato per lunghi anni il calcio a massimi livelli. Amici, colleghi, esponenti del mondo dello sport e semplici cittadini che gli volevano bene gli renderanno omaggio nel Duomo della sua Cormons alle 14:30, l'orario del funerale. Sempre nel Duomo è aperta stamattina la Camera Ardente. Pizzul è morto nella notte tra martedì e mercoledì all'ospedale di Gorizia, all'età di 86 anni. La sua scomparsa ha commosso l'Italia intera, anche tra chi non aveva mai avuto il piacere di conoscerlo di persona, ma ne apprezzava l'animo unanimemente considerato buono. Il tono pacato, l'acuta proprietà di linguaggio, le competenze maturate nel suo passato da calciatore professionista sono stati i tratti caratteristici della sua lunga carriera, iniziata con un provino nella sede RAI di Trieste alla fine degli anni 60. Non aveva la patente di guida, amava muoversi in bicicletta e giocare a carte con gli amici di Cormons e di Corso Sempione, storico punto di riferimento della RAI di Milano dove ha lavorato, sempre disponibile a commentare le vicissitudini dell'Udinese Calcio o della Nazionale Italiana, da lui a lungo narrata. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora il caso Flex, i sindacati saranno davanti ai cancelli della fabbrica triestina, ora chiamata Adriatronics, il prossimo martedì 11 marzo, dalle 10 alle 11. L'obiettivo è fare il punto con i lavoratori e aggiornare la stampa. Durante l'assemblea le RSU raccoglieranno i mandati individuali per la messa in disponibilità dei dipendenti per lavorare a fronte della decisione unilaterale dell'azienda di mettere tutti i lavoratori in ferie forzate nella prima settimana del mese. I sindacati chiedono anche che Fercap firmi il verbale di incontro relativo al tavolo al Ministero a Roma, in cui si impegna a vendere a terzi l'azienda con condizioni di maggior favore a chi subentrerà. Domani è l'8 marzo e alla vigilia della festa della donna a Pordenone l'ANMIL, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, ha presentato un'analisi sui numeri e condizioni delle donne infortunate. 3 donne hanno perso la vita sul lavoro in Friuli Venezia Giulia nel corso del 2024, 0 l'anno precedente, e anche gli infortuni sono aumentati più 2,3%. La nostra regione fa peggio della media nazionale, che comunque segna un più 1,8%, e crescono anche le malattie professionali più 12,8%. Alla vigilia della festa della donna l'ANMI, l'Associazione Mutilati e Invalidi sul Lavoro, presenta a Pordenone i dati regionali sulla condizione della donna infortunata nella società. La differenza di genere è un arricchimento, la disparità è invece una violenza, dice Sonia Daniello, consigliera dell'ANMIL, che lei stessa ha subito un'aggressione nel 96 come infermiera. Siamo qui con lei, ci racconti cosa le è successo. Beh, un paziente non psicologicamente stabile mi ha aggredito provocandomi un infortunio abbastanza grave, tant'è che sono rimasta fuori dall'ambiente di lavoro per circa 90 giorni. Lei dice sempre più spesso, e in ospedale in particolare, le donne vengono aggredite sessualmente. Cosa significa? Sì, ci sono delle molestie anche diciamo superficiali, vengono lette così, come una battutina o il tocco, no? Nelle parti basse non è molto bello, tra di noi vive la paura. Lei dice le donne a volte non denunciano, perché non lo fanno, specie in ambito sanitario, perché non lo fanno? Perché bisogna andare avanti, abbiamo troppo lavoro e non abbiamo il tempo di fermarci e di dire basta a certe violenze appunto subite. Pordenone, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Alla vigilia dell'8 marzo i ricercatori dell'IRES Alessandro Russo e Chiara Cristini hanno dedicato un approfondimento a donne e lavoro. Considerando i dati Istat relativi a Friuli Venezia Giulia, al Veneto e all'Italia, nel 2023 tra gli uomini in età attiva dai 15 ai 64 anni il 74% risultava occupato, tra le donne poco più di una donna su due, 52,5%. Il divario è di quasi 17,9 punti, recuperando appena un decimo rispetto a 5 anni prima. L'Italia si trova all'ultimo posto in UE per tassi di occupazione femminili e l'indicatore è inferiore di 13,2 punti del valore medio dell'UE a 27, che è a 65,7%. In Veneto il tasso di occupazione delle donne raggiunge nell'ultimo anno il 62,8% e in Friuli Venezia Giulia il 62,2%, ponendo le due regioni molto prossime al valore medio UE, ma presentando comunque dei divari di genere rispettivamente di 15 punti di 12,9 punti, in lieve riduzione rispetto a 5 anni prima. Osservando le fasce d'età, in Friuli Venezia Giulia il divario di genere è più elevato nella classe compresa tra i 25 e i 34 anni, dove i punti sono 18,2, mentre in Veneto il gender gap è lievemente maggiore nella fascia 45-54 con 16,2 punti. Confrontando inoltre i tassi di occupazione femminili, i valori del Friuli Venezia Giulia rimangono inferiori rispetto a quelli del Veneto nelle fasce 25-44 anni, mentre sono più alti per le età più avanzate. E ora il tempo, il cielo è sereno sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 12 gradi e mezzo, Gorizia 17, Udine 16, Pordenone 15, Tolmezzo 12 e mezzo, Tarvisio 11 e mezzo, Forni di Sopra 11, Piancavallo 8, Montelussari 6, Monte Zoncolan 5 e mezzo, Lignano e Grado 12. E ora le previsioni del tempo per il fine settimana e l'inizio della prossima con Marcellino Salvadore dell'ARPA regionale. Fine settimana tutto sommato ancora abbastanza tranquillo, anche se non sarà perfettamente sereno come lo è stata tutta l'intera settimana. Direi giornata di sabato con cielo poco nuvoloso, quindi cambia poco, però qualche nuvola ci sarà, specie al mattino. Temperature intorno ai 3-4 gradi al mattino in pianura, poi di pomeriggio intorno ai 18-19, l'escursione termica invece per quanto riguarda la costa sarà un più ridotta, quindi qualche grado in più di notte e qualche grado in meno di giorno. Per la giornata di domenica cielo variabile, probabilmente con un cielo poco nuvoloso inizialmente, più nuvoloso dal pomeriggio sera, e poi nella notte tra domenica e lunedì inizieranno piogge che continueranno per tutta la mattinata di lunedì, e daranno inizio ad un periodo di tempo ben più incerto e più tipico della primavera, che sarà caratteristica di tutta la prossima settimana. È probabile che l'escursione termica si riduca e che quindi le minime salgano intorno ai 10 gradi circa in genere e le massime si abbassino di qualche grado. Avvocati in classe per insegnare l'arte della mediazione, un progetto che ha coinvolto 600 studenti con laboratori che si sono svolti nelle scuole superiori di Pordenone e San Vito al Tagliamento. Mediare i conflitti è un'arte per niente facile da imparare e mettere in pratica, soprattutto quando emozioni di forte rabbia e nervosismo prendono il sopravvento. Un gruppo di avvocate è andato nelle scuole superiori di Pordenone e San Vito al Tagliamento per insegnare le tecniche di conciliazione agli studenti. L'approccio è molto concreto. Cristina Corda, avvocata dell'Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione. Immaginiamo che lei mi abbia appena fatto cadere un vaso di fiori inavvertitamente sull'autovettura che io ho malamente parcheggiato sul marciapiede sotto il suo terrazzo. Io suono la porta e lei cosa fa? Abbiamo messo i ragazzi di fronte a queste simulazioni e i risultati sono sorprendenti. Da chi lo evita completamente, non aprendo neppure la porta, addirittura dicendo che è stato il gatto, il vento, a chi invece apre la porta, chiede scusa, offre un caffè, e a chi attua subito delle tecniche conciliative e collaborative per trovare una soluzione. Dalle neuroscienze sappiamo che fino ai 25 anni la corteccia prefrontale non è pienamente sviluppata e con essa la capacità di regolare bene le emozioni. Difficile quindi per i ragazzi negoziare. Possiamo dire che questa iniziativa è uno strumento di prevenzione del bullismo? Assolutamente sì, è proprio la mediazione scolastica come il fattore chiave per riuscire ad affrontare e risolvere il problema del bullismo nelle scuole. Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. La capitale della cultura europea ha ospitato ieri il pluripremiato scrittore di Sarajevo, Miljenko Jergović. Il servizio è di Nada Cionk. Miljenko Jergović, il pluripremiato scrittore di Sarajevo, era ieri sera ospite del Kulturni Dom a Gorizia, in ambito della capitale della cultura europea. Alla nostra domanda se Sarajevo, che è stata una città multiculturale, potrà tornare nuovamente orgogliosa della propria multiculturalità, Jergović ha detto che parlare di multiculturalità nella primavera del 2025 è difficile, fortemente ostacolato da ciò che egli chiama inizio della era Trump. Trump ci dice la negazione dell'altro, egli è convinto che l'altro vada sottomesso e le sue terre vadano conquistate, trasformate in un resort o cedute. Per questo il concetto di multiculturalità risulta flebile. Sarajevo, prosegue, ha perso la sua multiculturalità durante i 3 anni di feroce e disumano assedio. Da allora la città non è più la stessa. Ma, ha concluso Jergović, coloro che nell'animo ancora custodiscono il ricordo e i valori della multiculturalità che esisteva prima, sono da soli una capitale europea della cultura. Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. È un programma che valorizza le radici e guarda al futuro e conferma l'impegno a 360 gradi in favore delle donne e più in generale della crescita della comunità, quello presentato dalla neopresidente del Sor Optimist Club Stefania Garofalo per il 2025 nel corso dell'assemblea annuale. Tra le nuove iniziative il progetto Take It Easy SOS Tuttofare Aziendale, pensato per facilitare l'inserimento lavorativo di persone fragili attraverso un innovativo sistema di welfare aziendale, il progetto Adottiamo una STEM per promuovere la parità di genere nel mondo scientifico e tecnologico. E sono diversi gli appuntamenti del Comune di Trieste per la Giornata Internazionale della Donna. Oltre all'ingresso gratuito per le donne nei civici musei cittadini, saranno organizzati incontri e iniziative. Alla Casa Internazionale delle Donne in via Pisoni c'è in programma la lettura di poesie Rimando Origine da parte dell'associazione L'Una e l'Altra dalle 10 alle 16. Poi alle 11 è cominciato al Museo d'Antichità Winkelmann l'incontro Fiori d'acciaio nell'età del ferro a cura di Costanza e Brancolini. Alle 16 al Museo del Risorgimento la visita alla mostra Mamma Carissima, lettere dal fronte a cura di Antonella Cosenzi, mentre alle 17 al Museo d'Arte Orientale Francesca Avignone guida i visitatori nell'evento Oriente al Femminile. Alla stessa ora al Museo Lezza in Piazza Ortis ci sarà Lezza al Femminile, una visita guidata gratuita a cura di Cristina Fenu e a seguire l'incontro con la poetessa Franca Mancinelli. Finisce qui questa edizione del Giornale Radio Regionale che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Dario Ronzoni. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia.